Urdu kis ke parle farsi? Nadir Tarmana, parle farsi? Italia, chiama Spagna. Italia, chiama Spagna, prego. Parli con me, operatore Falchetto. Falchetto, Falchetto, si è copiato da me Roger. Comprendo, non comprendo. Chi è che parla francese? Questa è Elena. Elena dalla Televisa. Elena, vamos a ver se va escuchando la Sardegna Italia che va chiamando davanti. Mi cambia, fate. Appagata. Attenta Elena, se si scucci la Sardegna. Adelante. Attenta Elena, ricordere Luca, ok? Luca dalla Italia. Attenta Elena, ricordi Luca dalla Italia, ok? Attenta Elena, se tu scusi qua, la Italia che chiama. Hola España, vamos a ver si va escuchando la Italia, adelante. Siente Elena, se va escuchando Italia, adelante, prego. Atento, 30 división, este es 34 división, que llama, hola, buenas tardes. Buenas tardes, avanti l'operatore, qua operatore Falchetto. Transmitiendo, vamos a estar atento, este tiene dice, ¿no? Escuchando la Italia, ¿lo comprendido por favor? Sí, Málaga, saludos, se copia ahí, perfecto, mi nombre es Domingo, transmitiendo desde el norte de Tenerife, vamos a estar atentos, coméntame tu QRA, por favor. Sí, QRA. Claro. Ya, no, yo estoy en Málaga, quieto mi hermano, vamos a ver, se va a escuchar la Italia, que va llamando, adelante, ¿lo comprendido por favor? Attento mio hermano, vamos a ver se va escuchando la Italia, la Nord Sardinia che va chiamando. Fue comprendido por favor, muchas gracias. Adelante. atienta Elena, Elena. Atienta Elena, vamos a ver si va escuchando la historia que va llamando. Adelante. Ok, Elena, Luca, ricordi de Luca, Elena, era Italia. Quanto brasileira! Quanto brasileira! Quanto brasileira! Atenta Elena, Elena! Vamos a ver se va escuchando a Italia! L'operador Lima Uniform Charlie Alfa de la Sardegna que va llamando, gaba, gaba. ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Chupa! Atiende Elena, Elena, vamos a ver si va escuchando a Italia que va llamando, adelante, comprendido, por favor. Vamos a ver, Tomás, ya te copié perfectamente ahora, ¿ves? Cabo di Mironi. Comenta esta vía entera por ahí, por ese lado del charco, adelante. Atente, copia fuerte, chiaro, Luca. Entra, entra, españolitos, muchacho. Atento, muchacho. Atento, compañero, atento, compañero. Vamos a ver, se va escuchando la Italia. Norte Sardinia que va llamando, adelante. Atenta muchacha, la Nord Sardinia que llama, breco, breco, breco. Que entra de la parte de Italia y tengo varias estaciones que entran por ahí. Hola, atento compañero, vamos a ver si va escuchando la Italia. ¿Me escucha, por favor? ¿Me escucha? Comprendido, por favor. Muchas gracias. Un señalito de nuevo en la radio del 5, ¿ok? Perfectamente, se toma. Asiento. Entiendo que tiene mi mismo equipo. Como es. Hola, chico, hola, chico. Le tengo a Paloma, su marca. Sí. De la casa PK, ok. El MP7000. Parecido al Ecomaster, tiene lo mismo, ¿eh? Ganancia de micro, ganancia de eco, Royal V y potenciómetro de batería. Es parecido, ok. A mí me está dando buenos resultados. Un viejo micro también que tengo por acá. Pero se la compra bastante bien a la disco. Bueno, igual que el Ecomaster. ¡Elena! ¡Elena! ¡Atiende Elena! Atenta Elena, vamos a ver si va escuchando la Italia, adelante. Compañero, rompe tus pelotas, muchas gracias. Atenta Elena. Ahora tengo 25. Soleado y bastante bueno, y ahora tengo unos 25 grados aquí en el QTH. ¡Brillando! ¡Atento! ¡Ate, Emiliano! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Atento, Elena! Un comprendido en banda lateral USB. Atento, muchacho. proprio. Elena, se sguci Italia, cambio. Un controllito per favore, un controllito per favore. Attenta Elena, un controllito per favore, di Santiago Radios. Un controllito Elena, di Santiago Radio, por favor, por favor. Italia che chiama Spagna, Italia che chiama Spagna, cambio. Un controllito di Santiago Radio, por favor. Aspetta, sta rifuso. Cosa? Ma sta rifuso. Io non so tanto, ma poi ci faceva 9 ore il cantiere, madonna, sono distrutto, cazzo. Straordinario hai fatto. Scappo. Svegliaia. Straordinari, cavagata. Ah, c'è solo 10, te morti sono, eh. Bubu. Ma... Eh? No, non ho nessuno. Per carità. Bubu. Tu, te morti sono. Perché non mi ha detto 3 ore, Fabio? Perché non devo segnare la gente? 9 ore? Che c'è? A me non mi sono una valle di grazie, ma... Non mi vuole ritirare. Una settimana un'altra squadra, e un'altra settimana un'altra squadra. Sei niente di tutto, Luca, lì, se no ti butti di lì. Ma controllo di Santiago, Luca. Ma è più 20 affissi positivi, se da me. Già, parroccia, la radio è pulita. Ottima, va bene, va bene. E la roba che si inizia a pescarsi, poi si va migliorando. Io è stato così lo stesso. Ma non me ne vado, capito. Vai del bene, faccio il pacco l'altro. Scappa. Attenta hermana, Italia chiama Spagna. QSZ, QRZ, QRT e QRG, aiuto. Sì, 1, 2. Lavorare, fare l'amore, poi la gloria e tutto a prezzo. Pronto, buonasera, padre Scucciolato. Stiamo di bianco per me che c'è una negozietta, va? Ebbene, dove? Per paese bombarde. Chi c'è per lì? Paese del bombarde, paese dell'amore, paese del bombarde, paese del sesso, di tutto lì c'è. Yeah. perché è pagato adesso dal comune di Sassari e non ne ha problemi. Che sono puntuali, Capparoglio, capito la domenica? Grazie. lì, se non la messo da parte, la curiosità non la posso comprare. Ciao, ma. Poi quando non ho più soldi, me ne vado tutto. Fatti il typhoon. Ah, fatti il typhoon. No, è troppo, c'è 50 euro Massimiliano, non c'è buffulente. No, no, è troppo. Se mi fa di me non lo fa, se tu io ti no. La prima è la scheda, la metto, boh, 150 euro. Ah, va. Comunque lo dico. È troppo, è troppo. È troppo, capito. Cappa, cappa. E che va? Se mi davo lo schemino, lo posso io. Non è, sarà così facile, comunque, ci puoi provare. Sì. Non so che non è facile, ma tentare un uomo c'è la salute, cava. È un, tutta questione di componenti, per farlo girare così. Già lo so, ci vuole un relè, ci vuole un casino di roba. Oh, lo so che ho visto parcheggiato nel lavoro 3-1. Che abbiamo parlato occasione di propagazione. Cosa? Paranautica. C'è Lucio, cazzo, c'è Lucio Paranautica. Ma è teso. Ho parlato io stasera con lui. Lo sai, l'anno scorso lui, forse non te lo ricordo, quante volte abbiamo urlato assieme a propagazione. Kappa kappa. Ma sì, Massimiliano, sei che te lo vai a tre quasi dopo. Sono qua a coso, al coach. Siamo una fucilata qua. Beh, riguardo di una fucilata, gaba. Gaba, gaba. Un impianto è fatto bene. Gaba. Fatto ultimo, ultimo, ultimo, ultimo. C'è un picco di modulazione avvicinato alla sua guardia. Che tu ci trovi 30 qua, Vabbè, ti ho di fronte praticamente, dai, almeno lì ti ho di fronte. Gappa, gappa. Falchetto! Aiuto, poi mi arriva in base, mi è troppo tiriosto qua, aiuto. Adesso qua la casa dei baracchini. No, con un baracchino e un microfono. Sì, e io sono operato un microfono, quasi un baracchino e un microfono. E vabbè, insomma, la gente mi ha chiesto le bevi più 4, non è un'idea tu, non lo vuoi dato, mai, mai, mai, poi mai. Poi non se lo vuoi dare, va. Ma non mi importa, mi lo vuoi dare l'altro. E kappa kappa. Bello, è la birra quello. Sei di Dio, un macchinetto serio sempre. Allora, vediamo, va. Vediamo. È che per fare un baracchino ci vogliono un pacco di soldi. Io non lo volevo fare per fare il collegamento, ma se questo te lo riprendo io, ma così mi ammazzate. Io non ti sto dicendo, comunque ti sto dicendo, anche se lo tieni normale, un baracchino serio tienitelo. Quando ci vogliono i soldi, tu devi andare normale, andare di sotto, andare sopra, bip, ecco, corte, poi, a due volte. Un bel dinaro, un bel. Io per come l'ho fatto io ce ne voglio un bel. 2,50 abbondanti, quasi 3. Cazzo, non direi travagli, faccio di mille un culo, ma un tanto. Nada. No, non si campo così, no. Adesso ci hanno fatto diversamente, se no non basta. Osservo, punto, tutte le poste, faccio banco posta. E che non può credere. Ma infatti io mi avrei tenuto quel 14 e i soldi me li avrei conservati. Ah, io non faccio solo uno scambio, lì di 100 euro, non è che devo fare questa cosa. No, allora va bene. Un amico, ne ho dato solo lui, capito, kappa. Cazzo, ne ha uno lui, nuovo, nuovo, fiammante, bello, da la lama è quello, non me ne vuole dare, è nuovo. Se ne veloce non al negozio, bello, nuovo, fiammante, fiammante. Io Luca, io devo essere sincero, a me non piaccio. dico la verità. Non piacciono, li ho visti, però non sono apparecchi che mi piacciono. Non perché li disprezzi, però sono per le radio, sono belle, tutto quello che ti pare ti piace, però non, a me per i gusti miei non piacciono. A tutti che piace. Comunque, non ti volevo dire che i colpi adesso qua sono attenuati, attenuatissimi, capito? E allora niente, non va grande, poi ti puoi spostare quando vuoi, dove vuoi, puoi scendere quando vuoi. E poi faccio arrivare un volo bello, adesso vediamo, là però c'è i quattrini, il telefono non lo faccio spedire, quello lo prendo. Beh, se lo dico lo faccio. Dai ragazzo, io sono arrivato, mi sto infilando in un parcheggio, l'ho appena trovato, niente, là ci guardiamo con finta, la vedo come va. Come mai? Ah, boh, speriamo che faccia l'insegna di Sidone. No, lo pensano, va. Se la prendete in viaggio, sabato con te non lavorano, domenica non lavorano, ma se partito da venerdì dovrebbe essere, non dico molto, ma dovrebbe essere già, già in Sardegna, perché a metterla sull'aereo non si guida molto, Infatti Mario, ma l'hai ordinata dall'Italia? Che c'ha? E allora mi penso per domani sia a casa, eh? Io l'ho compreso il trasporto e io ho chiesto se la volete tutti in quanto la turbo. Ma ha aggiunto tuo figlio, Mario, è arrivata la sua amicizia. È arrivata? Ma hai visto, ma cacchio è disumabile, davvero amabile, boh. Veramente, adesso non mi stanco, ma non mi dici in piedi, Mario, veramente. E poi sono arrivato con la casa tuo figlio, vaffanato. Già, sei più vicino, e sono stato detto. Cazzo, mia. No, guarda, sono capito chi era, tu sei arrivato a te, vaffanato, rivaffa. Ho sentito se c'era ancora Domenico, ha detto Domenico, Domenico sta ascoltando musica, riprende Mario, devo riprendere, mi sa che faccio un attimo di piatto io, dai. Sono qua, ma perché se ti dessi lo svento con chi finito? Ma dove volete? Se che sei la stessa il dottor Vito che mi ha voglia di presa, calma! E tu ma come fosse di te ci chiedi dai carabinieri? Per carità, adesso meno male che diciamo sempre lasciamo qualche minuto, lasciamo qualche cosa. Vabbè, io oramai non sento neanche i grandi da lontano, figuriamoci piccoli. Va bene Mario, va bene. Ma sì, se tu sei in buona, è un reso che posso male. A vedo il Mario, è un po' di fossi. Se sono tutte le cose là, gli altri che non mangiano più, è morto, lo vedo. Infatti, era morto e mi ha arruinato a me. Adesso Luca ripete va a mangiare, dai. Cosa che gli altri, ci sei sentiti, ci sentiamo dopo, cava. Va bene, allora ce ne andiamo tutti su 10, buon mangiare, che buon tutto, e se noi ci sentiamo alle prossime, io appare positivo, intanto anche Falchetto mi è sembrato che voleva staccare, perché aveva qualcosina da fare, non è che ci sia parlato il pino? No, a caricare un po' dai, Maria, ci sentiamo a 10 più dopo se così, dai. D'accordo, a più dopo. Ciao. Buona carica, buon tutto, ce la risentiamo. Cappa Mario, anche a te, buon carica, buon tutto, dai. A più dopo, a 10 se così, dai. D'accordo. Ciao, Barocci.